www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre fuori dalla fabbrica di polli tempo atmosferico cambia, anche se non sembra, Kappa e Drago sono impegnati a torturare il pollo in sbattimento. Ma lasciatemi andare, no? Sì, non ci pensiamo nemmeno, pollo in sbattimento. Stai lì, quello è il tuo posto. Adesso te ne stai appeso per le zampe, proprio come facevano le galline di mia nonna. Oh, che bello. Che però poi tagliava loro la lingua e le lasciava lì a morire di sanguate, perché diceva che la carne diventava migliore, sai? Sanguando lentamente, sì. Così. No, così no, eh. Così no. Uè, guardate che se provate ad avvicinarvi li becco, eh. Che paura. Uè, se la becco in giù non li becco lo stesso, eh. Io il becco ce l'ho in giù ma ce l'ho ancora, eh. Li becco, eh. Lontani di qui, eh. Vedrai che un paio d'ore con la testa in giù ti faranno bene. Ti va il sangue alla testa, ragioni meglio. Ma no, ma sono pentito. Ah, sì, sì. Tu, il pentimento, non sai nemmeno che cos'è, pollo. Sì che lo so. Adesso che sono qua preso per le zampe non so bene cos'è il pentimento, no? Adesso lo sai. Vorrei tornare indietro e non tradirvi più. E se invece non ti trovassi appeso per le zampe, vorresti dire che non saresti pentito? Beh, no, eh. Vabbè, perché dovrei, allora. Ecco, bravo, allora adesso tu stai lì ancora un po' e vedrai che il sangue ti scorre nel cervellino e alla fine vedrai che capisci. Ma no il sangue alla testa. Ragazzi, fatemi scendere da qui, no? No, no, no. Stanotte c'è la cattura, io devo lavorare, eh. C'è la cattura, cos'è la cattura? È la cattura, ma siete qua da una vita, non sapete ancora cos'è la cattura? No, e se non ce le dici tu queste cose? Allora, ogni 5 settimane a mezzanotte arriva un camion dell'impresa di cattura che carica i polli maturi e li porta al mattatoio. E per portarli lì li mettono nelle cassette, no? Ci stanno 42 polli adulti dentro una cassetta, tutti stipati però, eh? E poi prima di stiparli devono catturarli però. Ed è qui che scatta l'operazione cattura. E addetti dell'impresa entrano, acchiappano 6-7 polli per volta e li sbattono nelle cassette. Che poi non è difficile prenderli, eh? Perché sono tutti polli obesi e mezzo addormentati. Quindi è facile. Il problema è che in quel reparto lì c'è una luce blu che non illumina. Quindi è difficile, per esempio, non scambiare un pollo zombie per un pollo vivo. Hai capito, Drago? L'impresa di cattura. Sì, a proposito. Dovrebbero essere più a momenti, eh? Che ora è? Mezzanotte. Ma tu resti appeso. Eh sì, eh. Ma però... Però cosa? La fabbrica di polli. Adesso basta scherzare, eh? Ah, sì, sì. Lasciatemi andare. Attento, Drago. Non mi piace stare a testa in giù legato per le zampe, no, eh? No. Mi sembra di essere un cappone di Don Abbondio. Ma pollo sa anche la letteratura. Sono di Milano io, eh? Volete che non conosca i Manzoni? È il Don Lisander. Pollo. Pollo, lo senti questo rumore? Sì che lo sento, cos'è? Indovina un po' cos'è. Sono croccantini? Croccantini no. Per il gatto? Ma no, tu sei un pollo, che gatto? Acqua, acqua, acqua. Come acqua? Acqua. Ma acqua non fa sto rumore. Acqua. No, acqua nel senso di senso? Acqua, fuochino, acquina, fuoco, fuoco. Ah, giochino. Pocherello. Cos'è allora? Sono chiodi? Una scatola di chiodini? Acqua. Acqua. Caramelle. Fuochino. Pastiglie? Fuoco. Pastiglie di paroxetina? Bravo pollo, vedi, lo sapevo che le avresti riconosciute. Alla lunga. Sì, ma non pensare, guardate che io sto per smettere. Con cosa? Smetti con la paroxetina. Adesso basta. Non posso mica continuare così. Ma come? Ma no. Per un anno hai fatto una grande pubblicità la paroxetina. Sei stato. Hai fatto aumentare le vendite. Vabbè, allora i tempi cambiano, eh. Vabbè, così. E cambiano anche le mie fobie sociali. Cioè, vuoi dire che ti sono passate? Beh, quasi completamente. Per merito della paroxetina. Anche. Ma allora perché smetti? Se anche, insomma, ti aiuta. Vabbè, ma adesso è venuto il momento di camminare da solo. Basta. Senza aiuti esterni, senza stampelle. Però come faccio a camminare da solo se mi tenete preso per le zampe? Ma adesso camminare non se ne parla per il momento, eh? E allora? Questo rumore non ti fa più venire l'acquolina in bocca? Sei sicuro? Allora, ancora non ho smesso completamente. Vedi? È sempre così però, quando la gente dice smesso. Però le mie sono buone intenzioni, Vabbè. Però devo resistere. Così faccio fatica. E basta adesso però, allora. Allora datemene una almeno. Mettetela! È una per andare avanti! Gliene diamo una? No, sai cosa facciamo noi, Pollo? Noi facciamo come nel reparto nutrizione forzata. Ti rovesciamo tutto il contenuto nel gargarozzo. Tengo aperto il becco. Allora, vieni qua. Vieni. Dai. Ecco. Oh, e adesso prova un po' a smettere se ci riesci. Ma come si sa bene? Ma io sono appeso teso in giù. Uè, ma dove siete andati? Capa. Drag. Oddio. Sto bene tranquillo, però. Adesso mi scoppia la testa. Però adesso... aspetta che torna. Adesso mi addormento un po'. Aspetta, su qua un attimino, poi arrivo. Adesso c'è anche il vento, mi muovo. Mi muovo come un pendolo. Mi gira adesso. Mi gira troppo adesso. Madonna mia. No, questa è l'ultima volta, Adesso poi smetto. Smetto davvero stavolta. La rossettina, mai più. Neanche una. La fabbrica di polli. Ma Drago, e quelli lì adesso chi sono? Sembrano. Drago! Ma quelli lì sono! Gli uomini dell'impresa di cattura! Calmo, Drago, quelli catturano polli, non uomini fatti e finiti, come noi, soprattutto finiti. Vabbè, non sarei così sicuro del mio aspetto. E però. Poi, forse, Drago, sono proprio questi uomini che possono aiutarci a scappare di qui. Come? Ma sì, forse possiamo farci caricare su un camion e uscire dalla fabbrica. Sì, vabbè, per finire nell'ammazzatoio. Ma no, saltiamo giù prima, Drago, dai, è un'occasione unica. Ma no, Calpa, dai, pensiamoci bene. Qui, in fondo, non ci manca niente. La temperatura è ottima. Il cibo abbonda, fin troppo anzi. Ma Drago, ma basta con ste robe. Ma insomma, rientra in te. Ma cosa dici? Il tuo è un tipico caso di sindrome di Stoccolma. Anzi, un tipico caso di sindrome di Stoccolma. Ma cosa dici? La sindrome di Stendhal, non la sindrome di Stoccolma. Questa è un'altra faccenda. La Stockholm Syndrome è cosa ben diversa da Stendhal Syndrome. La Stockholm Syndrome è il rapporto di sudditanza che il carcerato sviluppa nei confronti del carceriere e che può venire scambiato per affetto o amore. Ed è esattamente quello che tu, Drago, stai dimostrando. No, ma non è vero. Sì, affetto per la tua prigione, affetto per la fabbrica di polli. Ma sì, però poi può andare male. Drago, svelto, sbrigati. Guarda bene da dove entrano quelli dell'impresa di cattura che poi ci infiliamo da lì. Sì, dovremmo seguirne uno, vedere dove metti i polli nelle cassette. Ma guarda, ma sono rincoglioniti i polli. In questa luce blu non si vede niente. Cappa, dove Drago, sei? Drago, eccolo che esce, eccolo. Esce da quella porta. Dai, presto, subiamo, vieni. Vieni, Drago, dai. Eccolo, il camion delle libertà! Cos'è? Il nuovo partito di Berlusconi? No, quello era il camion delle libertà. Dai, sali su, dai che si parte! Che cosa succederà adesso? Cappa e Drago hanno finalmente trovato il modo di fuggire dalla fabbrica di polli? E se sì, che cosa succederà nel prosieguo della serie? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo ardimentoso allestimento de... La fabbrica di polli produce non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli